Mentre ti parlo, alza la testa, lascia spazio a quel che resta delle tue paure, delle tue ambizioni. Ora zitto sono qui, voglio capire per non perderti. Da troppo tempo ormai confondi i maxi schermi con la luna. Un morso al panino, solo una fetta, saziava più di un pasto solitario. Amico, cosa resta? Dici interagire, nascondi solitudine. Credo sia anche colpa mia, potevo dirti più di una volta. Basta così, non serve di più. Bastava lanciare i sassolini sulla finestra. Basta così.